giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Scossa di terremoto nelle valli del Natisone ieri sera alle 21:17. Nessun danno, ma il sisma è stato sentito distintamente anche Udine. Mascherine in ospedale almeno fino al 31 dicembre. Per gli operatori della sanità regionale è una decisione fondamentale. Anzi, chiedono di mantenere l'obbligo anche dopo la fine della pandemia. Litiga con il fidanzato e torna a casa a piedi nel cuore della notte, ma viene investita e uccisa dall'auto di un giovane, risultato positivo ad alcol e droga. La tragica fine a Pieve del Grappa, in Veneto, di una 22enne tolmezzina. La procura di Trieste ha disposto l'autopsia per comprendere le cause della morte della 33enne triestina trovata priva di vita nel salone di parrucchiera dove lavorava. Ultraottantenne cade dall'albero su cui stava lavorando nel suo giardino a Buia e lì trasportato all'ospedale di Udine in condizioni gravi. Si continua a lavorare per ridurre l'inquinamento da idrocarburi nel canale di San Giorgio di Nogaro. Ancora da chiarire le circostanze dell'incidente avvenuto ieri. Sul fatto indaga la procura di Udine. Le convivenze forzate dal lockdown hanno spinto in su i divorzi, a mettere zizzania nelle coppie. Anche il tema vaccini cresce in regione, il ricorso agli avvocati divorzisti. Un nuovo monumento per simboleggiare la pace tra i popoli italiano, sloveno e croato è l'iniziativa del comune di Gonars, che durante la Seconda Guerra Mondiale ospitò sul proprio territorio un campo di concentramento. Nella giornata dedicata ai defunti si fanno i conti con i rincari dei fiori da portare sulle tombe e a Rivignano torna il Festival Mondiale della Canzone Funebre, che si propone di riconciliarci con la morte. Buongiorno da Lara Zani e Francesca Vigori. In apertura uno sguardo al tempo. Il cielo è prevalentemente nuvoloso sulla regione con qualche schiarita sulla costa. Le temperature a Trieste 15 gradi, mare calmo con temperatura di 20 gradi. A Gorizia Udine 13 gradi, a Pordenone 14, a Forni di Sopra e a Tarvisio 7 gradi, a Tolmezzo 14 gradi, a Sappada 4, a Piancavallo 5, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 7 gradi, a Lignano 16 gradi, a Grado 17, in queste località la temperatura del mare è di 19 gradi. Le previsioni per oggi a cura dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Cielo variabile, sarà probabilmente maggiore nuvolosità sull'alta pianura e sulle prealpi Giulie. Nella notte, poi anche nel pomeriggio, saranno possibili piogge sparse e in genere deboli. Possibile formazione di foschie nelle ore notturne, specie sulla bassa pianura. Una scossa di terremoto si è verificata ieri sera non lontano da Udine, il centro di ricerche sismologiche dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale l'ha misurato in 3.2 gradi Richter. L'epicentro è stato localizzato a 2 km a nord e nord-ovest di Torreano di Cividale, nelle valli del Natisone. Il sisma si è verificato alle 21:17:22 ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita anche a Udine, nei comuni a nord del capoluogo e nel Cividalese, ma i vigili del fuoco del comando di Udine non sono giunte né telefonate né segnalazioni. Una 22enne originaria di Tolmezzo e residente da qualche anno con la famiglia nel Trevigiano è morta la scorsa notte, investita da un'auto a Pieve del Grappa in provincia di Treviso. La giovane si chiamava Miriam Ciobanu. È stato arrestato in flagranza del reato di omicidio stradale aggravato il 23enne che alla guida della propria auto alle 4:30 del mattino ha investito la ragazza. Un impatto violentissimo. L'automobilista avrebbe detto di essersela trovata all'improvviso sulla carreggiata, che non ha lasciato scampo. Nello schianto la ragazza è finita prima sul cofano, poi sul parabrezza, sfondandolo e venendo catapultata molti metri in avanti. Quando sono arrivati i medici del 118 non hanno potuto che constatarne la morte. Ferito e in stato di shock, il giovane conducente dell'auto è stato portato in ospedale dove è risultato positivo all'alcol con un tasso molto superiore al consentito e agli stupefacenti. È stato così arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Ad estato sgomento la prima ricostruzione sui motivi per i quali Miriam Ciobanu si trovava alle 4 del mattino con il buio e la nebbia lungo quel tratto comunale della strada provinciale, un pezzo d'asfalto senza marciapiede e non illuminato. A quanto finora accertato, la ragazza aveva trascorso parte della notte a casa del fidanzato, poi tra i due sarebbe scoppiato un forte litigio e così Miriam avrebbe deciso di andarsene tornando a casa a piedi. Proseguono le indagini della squadra mobile della Questura di Trieste per risalire alle cause della morte di Laura Greco, la 33enne triestina il cui corpo senza vita è stato trovato sabato all'interno del salone da parrucchiere in cui lavorava, attività di proprietà di un pakistano. In questi giorni verranno svolti ulteriori esami e approfondimenti, tra cui l'autopsia, per ricostruire con esattezza quanto accaduto e accertare così le cause della morte. Il corpo è stato rinvenuto all'interno del negozio in via Foscolo, dopo le segnalazioni di parenti che non avevano notizie della donna da diverse ore e di clienti che avevano trovato il salone chiuso. Il cadavere è stato trovato sul pavimento in posizione prona. La porta di ingresso principale era chiusa a chiave. Incidente domestico ieri pomeriggio a Buia. Un uomo di oltre 80 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto da una pianta da un'altezza di circa 3 metri. È caduto attorno alle 17 in un fondo agricolo. Dopo la richiesta di aiuto, sul posto sono intervenuti un'ambulanza proveniente da Gemona e l'elisoccorso, che ha trasportato il pensionato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato accolto in codice giallo a causa delle gravi lesioni riportate. Al vaglio le cause dell'infortunio. Mascherine per sanitari e visitatori nelle corsie degli ospedali e nella RSA, almeno fino al 31 dicembre e forse anche nel 2023. I medici ospedalieri favorevoli alla decisione del governo. Le mascherine rimarranno nelle corsie degli ospedali e nelle RSA almeno fino al 31 dicembre. La dovranno indossare sanitari e visitatori. La norma potrebbe essere nuovamente prorogata anche nel 2023. A persuadere il nuovo governo anche le regioni e i medici ospedalieri. Il sì arriva anche dai reparti d'urgenza, a partire da quello di Udine, tra i più sotto pressione durante i periodi caldi della pandemia. Sentiamo il direttore Mario Calci. Per noi è sicuramente importante garantire la protezione nostra e dei pazienti. Forse la mascherina era un qualcosa che sarebbe stato utile anche prima, nelle periodi influenzali, la diffusione dell'influenza, che è una patologia che comunque uccide gli anziani, è comunque favorita dall'assenza di protezioni. Per cui io credo che in pronto soccorso sicuramente la mascherina è un elemento importante di sicurezza e probabilmente continueremo a usarla anche dopo la fine della pandemia. Mascherina anche dopo la pandemia, quindi, almeno nei pronto soccorso. L'ex senatrice Laura Stabile, medico, solleva un'altra questione. In ospedale ci si contagia anche e soprattutto per la promiscuità delle degenze. A cattinare le stanze sono a 2 o a 4 letti con un bagno in comune, spiega in una nota riferendosi all'ospedale triestino. Le infezioni ospedaliere da germi resistenti agli antibiotici sono un grande problema, per il quale l'Italia detiene un triste primato per mortalità, e queste si diffondono nell'ospedale tra i degenti. Le stanze singole hanno un grande significato dal punto di vista sanitario, auspica Stabile. A Udine Calci, direttore di medicina d'urgenza, spera che nonostante i problemi organizzativi siano confermati i percorsi separati per i positivi, anche perché gli accessi al pronto soccorso complessivi non calano, nonostante un weekend di Halloween senza eccessi conclusi in ospedale. È stata una notte intensa in tutti i pronti soccorsi della regione. A Udine abbiamo visto 65 pazienti, quindi un numero importante. Un solo intervento per, diciamo, ubriachezza a Udine. In regione mi risulta che ce ne sono stati circa una ventina. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Si è conclusa con la visita al nuovo flagship store di Moroso, nel cuore di Manhattan, la missione negli Stati Uniti del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Obiettivo: rafforzare il programma di internazionalizzazione delle imprese del Friuli Venezia Giulia, soprattutto nei settori ad alto tasso tecnologico. Dopo l'incontro con il console generale Fabrizio Di Michele, il governatore si è recato nella sede dell'Italian Trade Agency, che promuove l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e poi ha visitato alcune realtà imprenditoriali impegnate soprattutto nel settore energetico e nello sviluppo di tecnologie basate sull'idrogeno. Tra queste il New Lab, incubatore e acceleratore di start-up, che riunisce oltre 800 imprenditori, inventori, start-upper e 200 aziende impegnate in settori ad alta tecnologia. Si tratta di un modello interessante a cui poter guardare nell'elaborazione del piano che la regione ha per il Porto Vecchio di Trieste, ha commentato Fedriga, che ha poi visitato anche l'Entrepreneurs Roundtable Accelerator, uno tra i maggiori programmi di accelerazione di impresa di New York City. Nei prossimi giorni gli uffici del governo e del comune di Trieste esamineranno la questione della compatibilità tra le cariche di sottosegretario all'economia e assessore comunale di Sandra Savino, nominata. Il quadro normativo sembrerebbe consentire il doppio incarico, in quanto l'assessore non è una carica elettiva. Continua la polemica politica sull'annunciata nomina del vicepresidente Riccardo Riccardi a soggetto attuatore della terza corsia della A4. La consigliere regionale Maria Grazia Santoro del PD ha definito inopportuna la nomina, rifacendosi anche all'intervento del neo segretario regionale del Partito Democratico Renzo Oliva, che aveva detto all'assessore Riccardi: fa capo la sanità regionale con più della metà delle risorse del bilancio della regione e la protezione civile, ci si occupi dunque subito di concludere iter e lavori dell'autostrada. Ma aveva ammonito il segretario PD: non si distolgano energie e attenzioni dal fronte della sanità, con un ulteriore incarico a Riccardi. Un intervento, quello di Oliva, che era stato criticato dal consigliere Diego Bernardis della Lega, che ha respinto le critiche. La regione ha fatto tutti i passaggi necessari già tempo addietro, ma si attende la registrazione del protocollo presso la Corte dei Conti. Addirittura, continua Bernardis, l'amministrazione regionale ha già anticipato 70 milioni di euro per velocizzare tutto l'iter. Il neo segretario Oliva farebbe bene a preoccuparsi di quanto non ha fatto la ex presidente DEM della regione, Serracchiani. Lo sversamento nel porto canale di San Giorgio di Nogaro. Oggi è previsto l'intervento di ditte specializzate per l'aspirazione della sostanza inquinante. Potrebbe trattarsi di un atto colposo l'inquinamento verificatosi nello specchio d'acqua del porto canale di San Giorgio di Nogaro in zona Aussacorno, nell'area Porto Margaret, in un canale parallelo a Via Fermi. Intanto continua il lavoro della Protezione Civile e del gruppo volontari del Comune di San Giorgio di Nogaro insieme alla Capitaneria di Porto e ai Vigili del Fuoco, che hanno posizionato 70 metri di panne per contenere lo sversamento che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere gasolio. Le operazioni sono andate avanti nonostante la fitta nebbia della mattina. Nelle prossime ore saranno utilizzate ditte incaricate per aspirare il materiale disperso. Sul posto è intervenuta l'ARPA, che ha eseguito prelievi nell'area circoscritta, che nelle prossime ore saranno inviati ai laboratori per le analisi. Così si potrà fare chiarezza definitivamente sulle circostanze dell'incidente. Le operazioni di monitoraggio continueranno anche nei prossimi giorni. Non è stato necessario al momento chiudere il canale. Si tratta di un canale utilizzato normalmente per il transito dei natanti e delle navi a servizio delle imprese attive in aree industriale. In prima battuta erano anche intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli. Un evento di questo tipo in questa area non si segnalava da diversi anni. San Giorgio di Nogaro, Giovanni Termina, TGR Friuli Venezia Giulia. Quella di oggi è la giornata dedicata ai defunti. Tanta gente è in visita nei cimiteri per portare un fiore sulle tombe dei propri cari, ma l'aumento dei prezzi ha colpito anche questo settore. Nella rivendita di fronte al cimitero di Pordenone il via vai di clienti non manca, non si rinuncia a portare un fiore sulla tomba dei propri cari nel giorno dedicato ai defunti, ma si compra meno, ci spiega la titolare, scegliendo bouquet più piccoli o orientandosi su varietà meno costose. Lei ha notato acquistando i fiori che i prezzi sono saliti? Sì, sono saliti. I vasetti piccolissimi dei crisantemi messi in croce così sono 10 euro, sia qua che anche al mercato. Roberto Montagnini, fiorista. La differenza sostanziale con gli anni passati è che forse il tipo di clientela sta cambiando. Il problema grande sta invece nel reperire un prodotto che sia di una certa qualità ad un prezzo conveniente. Il caro energia si riflette anche sul costo di piante e fiori. Denis Barberi, fiorista. Il crisantemo reciso costava 2,50 euro, l'anno scorso l'abbiamo mantenuto sui 3,50. Le piante, bene o male, che hanno subito comunque non una produzione per il riscaldamento, ma dei trattamenti, perché sono piante che vengono coltivate a terra, ma hanno bisogno di trattamenti, quindi antiparassitari e anche fertilizzanti, e a loro volta sono aumentati e quindi costano dai 20 euro che c'erano ai 25, 27, 28. Al di là dei crisantemi, quali sono i fiori che hanno subito gli aumenti maggiori? Maggior parte l'anturium, che ha subito un aumento spropositato, si parla dai 4,50 euro di vendita agli 8 euro. E per i negozianti si sommano anche gli aumenti dovuti al caro bollette. Alessandro Trentin, fiorista. Per quanto ci riguarda, l'energia elettrica è aumentata del triplo. Noi cerchiamo ancora, finché ce la facciamo, di non influire sul cliente finale. Ovvio che certe scontistiche, certe promozioni, quelle sicuramente dovremmo rinunciare a farle. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. cresce il numero di divorzi e separazioni, un fenomeno che vede il Friuli Venezia Giulia ai primi posti in Italia. A incidere la pandemia, che tra lockdown, convivenze forzate, DAD e questione vaccini ha deteriorato anche i rapporti familiari. È ancora presto per una certificazione del fenomeno da parte dell'Istat. I dati relativi al 2022 saranno infatti pubblicati non prima di un anno, ma già un trend lo si può intravedere. Divorzi e separazioni in Friuli Venezia Giulia sono in aumento, o almeno è cresciuto e di molto negli ultimi mesi il ricorso agli avvocati divorzisti. A testimoniarlo sono gli stessi operatori del settore, oltre che i portali online che mettono in contatto clienti e professionisti, dove la nostra regione risulta la terza in Italia per ricerca di consulenze di divorzisti nei primi 10 mesi di quest'anno, con un più 8% rispetto allo stesso periodo 2021. Paola Valle, avvocato divorzista del Foro di Trieste. Nel 2020, durante il periodo del lockdown, c'è stato un indubbio calo, mentre già dal secondo semestre del 2021 si è tornati ai numeri del 19 e questo aumento è ulteriormente lievitato nel 2022, soprattutto dalla primavera. In assoluto sono più consensuali. Le giudiziali che restano tali nell'arco di tutta la durata del processo sono giudiziali caratterizzate da un'altissima conflittualità, per quanto mi riguarda superiore a quelle degli anni precedenti. Segno che la pandemia ha deteriorato anche i rapporti familiari. I motivi sono ovviamente di prima battuta di carattere economico, ma anche determinati da tutte le conseguenze del lockdown e dell'imposizione della convivenza che la pandemia ha determinato e che hanno imposto prolungate convivenze con aumenti infatti anche dei casi di femminicidio e di violenza endofamiliare. E dall'altra parte ci sono anche nuove occasioni di litigiosità determinate proprio dai pensieri dei singoli coniugi. L'obbligo vaccinale ha visto differenze di vedute all'interno dei coniugi, chi pro vaccino, chi contro il vaccino. Ci sono più coppie che hanno deciso di separarsi per questo motivo. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. I videogiochi a sostegno del turismo, un'opportunità che è già realtà al Trieste Science Plus Fiction Festival. Sentiamo. Si pongono a metà tra il fumetto d'animazione e il mondo digitale più futuristico, i videogiochi ambientati in luoghi turistici per far conoscere un territorio e il suo patrimonio culturale e stimolare la curiosità al viaggio, facendo leva sul coinvolgimento creato dall'interattività. A questa proficua nicchia dell'universo digitale è dedicato l'appuntamento degli Ivi Pro Days, inserito nel cartellone del Trieste Science Plus Fiction Festival. Come spiega il presidente dell'associazione organizzatrice Ivi Pro, Andrea Dressino. L'idea di accostare il patrimonio alla fantascienza può sembrare curiosa, in realtà invece è interessante perché la fantascienza in qualche modo è un racconto della realtà. Operazioni con costi ma anche ricadute più elevate della media. Come quantifica il proprietario di azienda di videogiochi croata? Marco Tominic. C'è il costo della localizzazione che non è basso, perché certamente dipende da quanti linguaggi volete avere nel gioco, ma per esempio il nostro gioco è localizzato in 15 lingue, così che il costo era più di 100.000 euro. Un settore che sta moltiplicando il suo raggio d'azione. Sono molti i referenti, perché si va appunto dalle istituzioni che sempre di più stanno investendo in questo settore, proprio per si stanno rendendo conto che c'è un potenziale per fare giochi appunto che raccontino i luoghi e che quindi portino poi un ritorno in termini di marketing territoriale in alcuni casi, ma anche le aziende che fanno giochi, quindi possono in questo evento conoscere altri esempi, condividere esperienze, scoprire altre esperienze anche straniere e quindi trarre anche ispirazione per futuri videogiochi. Il mercato, che in Italia è in crescita e non conosce crisi, è diretto a un pubblico più vasto di quanto si potrebbe immaginare. I dati dimostrano che a giocare in Italia sono fasce d'età molto trasversali, dai giovani agli adulti. Allargata anche la platea dei partecipanti all'evento, come globale è il mercato di riferimento. Where do you come from? I come from Hungary. Vengo dall'Ungheria, il mio compagno sta lavorando a un videogioco che propone una presentazione di Budapest negli anni 30. Trieste, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. e la seconda giornata del Trieste Science Plus Fiction comincia alle 14 al Teatro Mila con l'anteprima nazionale di To Exist di Gabriel Grieco, incontri ravvicinati del tipo argentino. Spazio anche ai classici con la proiezione di Il mostro della Laguna Nera del 1954 di Jack Arnold, in programma alle 16 al Mila. L'iconica creatura, mezzo uomo mezzo pesce, che si nasconde nelle profondità della giungla amazzonica, torna su grande schermo in versione restaurata. Alle 20 a Rossetti, l'anteprima nazionale di Rubicon, un disaster movie della regista austriaca Magdalena Laurisch. Alle 21 al Teatro Miele, in programma l'anteprima italiana del giapponese New Religion di Keishi Kondo. Alle 22.30 a Rossetti, appuntamento con Night Sky di Jacob Gentry. E l'ultima proiezione della giornata è in programma a mezzanotte al Miele con il film Anthropophagus II di Dario Germani. E torniamo a parlare di turismo, con il ponte festivo di questi giorni che ha portato viaggiatori e turisti a scegliere anche destinazioni di interesse storico ed archeologico, come Aquileia, che riunisce testimonianze romane, protocristiane e anche un comprensorio celebrativo della Prima Guerra Mondiale. Visite guidate sold out da 4 giorni ad Aquileia, ma senza patemi. Anche i last minute, se non sono troppi, riescono comunque ad entrare nel gruppo. Numeri record per la Basilica e il Battistero. Nell'ultima settimana 7.000 biglietti, di cui 5.000 a partire dal weekend. Io vengo da Ponte Lagoscuro di Ferrara, una località che ha un legame con Aquileia in quanto fu porto dello Stato Pontificio, porto fluviale sul fiume Po. Ma vi è anche un altro legame con Aquileia, in quanto a Ponte Lagoscuro passò il treno che partì da Aquileia, il treno del Milite Ignoto, e a Ponte Lagoscuro varcò il fiume Po diretto verso Roma. Wir kommen aus Österreich, aus Salzburg. Veniamo dall'Austria, a Salisburgo, siamo stati a Padova, Valdobbiadene, Palmanova e oggi qui. Tra i vini veneti e quelli friulani c'è davvero una bella scelta. Gran lavoro per ristoratori e pubblici esercenti, tra questi sentiamo Pietro Zerbin. Quest'anno è scoppiato il turismo, e sia il turismo di passaggio che le persone che si muovono, sicuramente tutto ciò viene aiutato dal bel tempo, dalle belle giornate, ma credo che non sia solo quello, ci sia dietro anche un po' di strategia della nostra regione, che ha puntato su un turismo che non fosse solo legato al periodo estivo. E a un anno dalle celebrazioni del centenario del Milite Ignoto rimane vivo l'interesse per i siti storici del primo dopoguerra. Sono un appassionato della prima e seconda guerra mondiale da Venezia e oggi sono venuto qui ad Aquileia a vedere il cimitero degli eroi, avendo visto il film, dare un omaggio alla signora Maria Bergamas. Per me è una regione mitica. Per me è una regione mitica per la sua eredità austro-ungarica. Vengo da Parigi e Trieste mi dà un sapore imperiale, mentre ad Aquileia c'è il fascino dell'antichità. Aquileia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Al Sacrario Monumentale di Gonars si è svolta la cerimonia di commemorazione dei 471 internati civili sloveni e croati morti tra il 1942 e il 1943 nel campo di concentramento che era stato allestito in questo comune del Friuli. Un nuovo monumento con una bandiera bianca e un ponte a simboleggiare la pace tra i popoli italiano, sloveno e croato è l'iniziativa del comune di Gonars, che dal 1941 ospitò sul proprio territorio un campo di concentramento nel quale furono rinchiusi centinaia di sloveni e croati. Ad annunciarlo il sindaco di Gonars, Ivan Diego Boemo, in occasione della cerimonia di commemorazione delle vittime del campo. Il progetto ha già avuto l'avallo della Repubblica di Croazia, ma il primo cittadino si augura che presto possa unirvisi anche il governo di Lubiana. Penso che sia una svolta importante per continuare a mantenere vivo il ricordo dei caduti, ma guardando un futuro unito assieme. Deve darci questo un'impronta storica importante per far sì che non accadano più le cose come sta accadendo purtroppo, ahimè, tra la Russia e l'Ucraina. Il campo di concentramento, costruito nel 1941 e inizialmente destinato ai prigionieri russi, dall'anno seguente divenne invece luogo di internamento di prigionieri jugoslavi, soprattutto civili provenienti dalle attuali Slovenia e Croazia. I poveri resti di 451 di loro riposano ancora oggi nel cimitero di Gonars. Il campo fu smantellato dopo la guerra e solo nel 1973 le autorità jugoslave eressero un sacrario all'interno del Camposanto, mentre nel 2009 l'amministrazione cittadina locale eresse un monumento proprio là dove sorgeva il campo. Il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. Siamo a commemorare persone che sono state vittime di una violenza nazifascista che era cieca ed era una violenza che era contro l'uomo principalmente, qualsiasi uomo, di qualsiasi nazionalità, di qualsiasi lingua. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E adesso una notizia di sport. Per la pallanuoto dopo l'Europa torna il campionato. Oggi, nel posticipo della seconda giornata di andata del campionato di Serie 1 maschile, la Pallanuoto Trieste ospiterà alla Bruno Bianchi la Pro Recco, che nel 2022 ha conquistato Scudetto, Coppa Italia e Champions League. L'inizio alle 19.30. Ricorrono oggi 47 anni dall'omicidio di Pierpaolo Pasolini all'idroscalo di Ostia. Il comune di Casarsa lo ricorda alle 11.30 con una commemorazione nel cimitero in cui è sepolto accanto alla madre Susanna. Ma alla cerimonia si affiancano in tutta la regione una serie di appuntamenti culturali promossi per ricordare il grande intellettuale. A Udine sono dedicate a Pasolini le riflessioni in Marilenghe di Toni Belin e Angelo Floramo, alle 18 a Palazzo Belgrado. Ancora a Udine sarà Alberto Garlini a introdurre la proiezione del Vangelo secondo San Matteo, quarto appuntamento della grande retrospettiva, alle 20.45 al Visionario di Udine. E in coincidenza con l'anniversario entra nel vivo anche il progetto Pasolini 1122 di Pordenone Legge, che promuove la giovane poesia italiana attraverso la produzione di 11 video alla scoperta dei luoghi che maggiormente hanno influito nella definizione della poetica di altrettanti giovani autrici e autori. Alla Fiera dei Santi di Rivignano, oggi è il giorno dell'originale chiacchierato Festival Mondiale della Canzone Funebre, che riprende a suo modo l'antica tradizione rivignanese del bal sul brear, ovvero il ballo sul rumoroso pavimento in legno per allontanare gli spiriti. Anche quest'anno i musicisti, che si esibiranno dalle 21 sul palco centrale, si sono cimentati nella composizione di una canzone a tema funebre di varia natura. Chi presenta un brano rock, chi cantautorale, chi ironico cabarettistico. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico Rocco Burtone. Come nasce questo festival? Nasce 20 anni fa per scherzo, per gioco, dalla testa di Enrico Tonazzi. Dopo 10 anni arriva Rocco Burtone, che decide insieme al sindaco Mario Anzio di farne una cosa più costruttiva. Pensi che i primi festival li facevamo per strada, adesso invece è diventato un festival con i fiocchi. È chiaro che c'è il discorso della tradizione a Rivignano, che da 2 secoli si festeggia il giorno dei morti. Quindi non è una cosa blasfema, bensì nasce da una tradizione. Come si spiega il suo successo? È proprio perché ho detto che non è blasfemo. Il parroco, il primo anno della seconda parte, diciamo 10 anni fa, aveva un po' contestato l'operazione. L'anno dopo il parroco era sul palco con noi a cantare. Questo per spiegarle che il festival è dal goliardico comunque al serio. Il Festival Mondiale della Canzone Funebre è una cosa seria. Quali saranno le novità di quest'anno? È la prima volta che abbiamo 3 ospiti in una serata. Da una parte abbiamo il cabaret degli anni 60, che viene portato da un gruppo che si chiama Giù col Morale, vengono dal Veneto. Questi rappresenteranno e parleranno dei Gufi, un gruppo di cabaret italiano nato negli anni fine 50 e hanno operato fino agli anni fine 70. Poi nella seconda parte ci sono Frizzi, Comini e Tonazzi con gli Hangover, che rappresentano un po' il cabaret e la musica ironica più moderna. Chiude la serata gli Spiritual Ensemble, che chiuderò col canto spiritual, che è una preghiera. Siamo alla rassegna stampa. Il Piccolo di Trieste dedica l'apertura al giallo sulla 33enne Laura Greco, trovata morta sabato nel salone di bellezza in cui lavorava. Dal comune le ipotesi per il dopo Savino. Nell'ipotesi in cui la neo sottosegretaria dell'economia dovesse lasciare l'assessorato all'urbanistica. In prima pagina anche richiamo sulla gara per la fornitura dei distributori automatici negli edifici comunali, che incentiva l'inserimento di prodotti vegani e a chilometro zero. Fotonotizia dedicata al gran finale del Kaiserfest con la sfilata e il ballo in costume. Nell'edizione di Gorizia e Monfalcone la prima notizia è quella che riguarda la demolizione dell'ex stabilimento Zulli. Al suo posto sarà realizzato ex novo un capannone più piccolo. A Monfalcone sono ripresi invece da alcune settimane i lavori per la riqualificazione del complesso dell'ex stallone. Il consolidamento, si annuncia, sarà raggiunto entro l'estate del 2023. Il Messaggero Veneto di Udine dedica l'apertura alla sanità. Anche gli infermieri pronti al blocco degli straordinari, la CISL chiede all'azienda di effettuare i pagamenti relativi al 2022. Nei primi sei mesi dell'anno 107 uscite dal lavoro e solo 32 assunzioni. In prima pagina anche il tragico investimento di Pieve del Grappa, cammina di notte sulla strada, travolta e uccisa da un coetaneo ubriaco. Ancora cronaca nei richiami in prima pagina, Udine strappati i tricolori esposti dagli alpini per il 4 novembre e la polemica a Campoformido e Pozzuolo, sabato senza scuola per risparmiare, i genitori protestano. A piede pagina la fotonotizia sul telecronista Rai Bruno Pizzul, che il 4 novembre sarà nominato commendatore. Non me lo merito, si figuri se me lo aspettavo, adesso sono in progressivo imbarazzo, dice nell'intervista. Nell'apertura del capocronaca sulla sanità anche il caso non ci sono fisioterapisti, le liste d'attesa si allungano. Il fascicolo del Messaggero di Pordenone apre con la raccolta differenziata che oggi parte in centro per quasi 4.000 famiglie. Oggi comincia la consegna di bidoni, sacchi e tessere magnetiche. Tra un mese sarà avviata la raccolta dei rifiuti con il nuovo sistema. A Porcia la polemica, intitolare un parco a Giulio Regeni ed è scontro in consiglio. Il Gazzettino del Friuli apre con la notizia della 22enne originaria di Tolmezzo, Miriam Ciobanu, travolta e uccisa la notte di Halloween a Pieve del Grappa, con il racconto del fratello del fidanzato che spiega: l'ho seguita, volevo farla tornare. Ancora nella notte di Halloween, della vicenda di una 13enne soccorsa in piazza a Maniago, ricoverata in coma etilico. Nelle pagine interne, i comuni alle prese con le bollette, i 90 sanitari Novax pronti a rientrare in corsia. L'Africa vista attraverso lo sguardo di chi la vive. Torna la rassegna Gli occhi dell'Africa, promossa dalla Caritas, che porta a Pordenone il meglio del cinema del continente. Il primo appuntamento sarà un viaggio musicale tra Senegal e Italia, con la proiezione, il 4 novembre alle 20.45 a Cinema Zero, del documentario Fenéhen, scenari di cultura urbana tra le periferie di Dakar. La seconda serata, il 10 novembre alle 20.45, porterà sul grande schermo le imprese straordinarie di un'alpinista marocchina, Boukra Baybanu, e ci sarà spazio il 22 alla stessa ora anche per il documentario girato da Pierpaolo Pasolini lungo le strade di alcuni villaggi africani negli anni 60. Si definisce un omaggio presuntuoso alla memoria della grande anima di Andrea Zanzotto, ecloga undicesima lo spettacolo teatrale del gruppo Anagor, che si rifà alla raccolta di versi che il poeta trevigiano ha pubblicato nel 1962. Il sipario si apre sulla tempesta di Giorgione, a cui Anagor ha dedicato in passato altri lavori. Questa sera alle 21 l'ultimo appuntamento nella Sala Bartoli del Politeama Rossetti. E partono oggi i lavori per il rifacimento della volta del torrente Martesini in via dei Moreri a Trieste. L'intervento rientra nell'ambito delle attività del comune per la riqualificazione dell'ex caserma della Polstrada in via Montorsino. Sarà chiuso un breve tratto della stessa via in corrispondenza del Civico 4 all'incrocio con via Villain de Bacchino. I lavori avranno una durata di circa 60 giorni, ma l'accesso sarà garantito sia ai pedoni che ai frontisti. Per ridurre al minimo i disagi, la Multiutility e il Comune, in collaborazione con Trieste Trasporti, hanno definito una viabilità alternativa per il trasporto pubblico e privato. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vue o Fevelin di, che parlerà del convegno Non scaldiamoci troppo. Ricercatori, istituzioni e imprenditori del settore dell'autotrasporto regionale si sono confrontati sulla sfida legata alla mobilità e in particolare al trasporto su gomma, un vero ostacolo in vista della neutralità carbonica del 2050. Alle 11.20 circa andrà in onda A Volo Radente. Oggi parleremo del pane, o più precisamente del fatto che fare il pane rientra tra le attività agricole e deve avere lo stesso regime fiscale dedicato. Poi andremo a Cossignacco a conoscere la storia di un ambulatorio di comunità inaugurato di recente. Infine faremo il punto su quanto è emerso dal convegno di Confesercenti svoltosi qualche settimana fa a San Daniele del Friuli sul tema della finanza agevolata, e illustreremo un'iniziativa promossa dal Comune di Pordenone e dall'Università degli Studi di Udine sul tema dell'educazione finanziaria. I programmi regionali tornano poi alle 13:29. Il nostro giornale si chiude qui da Lara Zani e Francesca Vigori, che lo hanno redatto e condotto, Walter Vidonis e Federico Comar, che hanno curato la parte tecnica, Daniela Sossi in redazione. Grazie per la cortese attenzione. L'informazione radiofonica regionale torna alle 12:30. Ancora una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.